sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ecco, le stanno arrivando le vacanze di Natale con tutti i loro orpelli, con tutte le loro meraviglie, con tutte le loro afflizioni. È arrivato il momento dei regalucci, è arrivato il momento dello shopping, è arrivato il momento del dolce calore familiare, è arrivato il momento dei parenti che ci vengono a trovare, è arrivato il momento delle invidie, dei confronti, dei vituperi, è arrivato il momento delle giornate che non terminano mai, delle giornate piene di cibo, piene di figli, piene di parenti, ma è arrivato anche felicemente il momento del cinepanettone. Samantha! Mami! Mamma! Silenzio, ragazzi! Papà ci vuole dire qualche cosa! Beh, anche questo Natale se lo siamo levato dalle palle. Dio volesse che così fosse, ma in realtà ancora è tutto da vedere, tutto da godere, tutto da guardare. So che questa mattina stiamo lambendo il confine del sacrilegio, so che questa mattina stiamo facendo tremare di rabbia e schiumare di indignazione tutti gli amanti della propria intelligente e istruttiva frequentazione delle sale cinematografiche. Ma ci poniamo un problema: perché a tutti fanno schifo, tutti dicono che fa parte di una sorta di produzione di serie B, tutti dicono che è materia per persone decerebrate, ma continuano ad avere un successo enorme. Questi filmacci che ci mostrano nella nostra più sgangherata e sguaiata maniera di essere, in realtà rappresentano delle pietre miliari della storia, del costume e del racconto della nostra umanità degli ultimi decenni. Noi ci siamo lungamente intrattenuti, anzi con cadenza settimanale, sulla produzione dei B-movie in Italia e abbiamo visto che in realtà vuoi i film pecorecci con Pierino, Alvaro Vitali, Bombolo e via dicendo, che però davano dei lampi su alcune situazioni critiche, alcuni passaggi cruciali del nostro paese che mai in maniera così libera, così anticonformista, così concreta e così realistica è stato trattato né dai nei grandi palazzi dell'informazione, nel cinema verità, né nel cinema documentaristico. Ricordate Pierino, medico della mutua, che deve ricorrere alla P2 per poter impropriamente diventare primario quando lui non sarebbe capace nemmeno, non so, di rimboccare il letto ammalato. Andando avanti abbiamo visto il genere decamerotico, che in fondo ha permesso di riscoprire il piacere della nostra letteratura classica per l'ignoranza crassa di gran parte degli italiani che hanno scoperto che esisteva una letteratura legata anche alla libertà dei costumi, al gusto per le attività licenziose, che rappresentano una dimensione poetica, e se l'hanno poi scoperto attraverso le chiappe della Fenech, non trovo che questo sia particolarmente grave. Ma andando poi avanti, tutti i film poliziotteschi di cui abbiamo parlato in una delle ultime puntate dimostrano che mai un clima come quello degli anni di piombo, come quello del momento del risveglio, della grande dell'illusione del boom economico, fu trattato in maniera realistica come in quei film. Beh, oggi invece analizziamo il fenomeno dei cinepanettoni. 800240024, voi li guardate, li consumate, quante volte li guardate, con chi li guardate? Io l'altra sera nei dolori mascellari e nel tedio esistenziale me ne sono goduto uno che avevo visto almeno 50 volte su un canale satellitare Sky, e mi sono ancora divertito, l'ho guardato insieme ai miei figli. Non trovo sia diseducativo guardarlo insieme ai padri, che commentano, che osservano, che mostrano senza nessun pudore, nessuna reticenza, quelli che sono gli aspetti propriamente non confessabili anche della propria correttezza di genitori. Serve aiuto? Si è fatto male? Mi pare guidare, Marcel! Adesso mi tocca prendermi un tavolo! Ma io te conosco con sta fascia, ragazzo! Ma tu non sei coso! Varese! La branda di sopra che serve a Duca degli Abruzzi la Spezia! Ma tu sei Frosinone, la branda di sotto! Dacci tua! Ma quanto tempo sarà passato la ranaglia? 20 anni, quanto? Ciao, come stai? Ma tu sei proprio uguale, uguale, uguale, uguale a 20 anni fa! Tale quale a tua mamma, spiccichiami cicchè! E te invece no? Ma che hai fatto? E capelli andò rimessi sotto traccia. E stavanza, amore mio, sei una tragedia. 1, 2, 3, 4, hit! Come sempre, a seguirci, guidarci e darci indicazioni preziose in questi percorsi rituali, in queste discese negli inferi, in questa lancinante maniera di guardarsi allo specchio e vedersi con occhio disincantato, è Giuseppe Sansonna. Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Ecco, siamo entrati nel Sancta Sanctorum dei filmacci, il cinepanettone, che ha una sua dignità perché è stato insignito questa sorta di inserimento rituale nel calendario delle nostre sconcezze. In periodo natalizio sembra quasi che nella serie di attività di cui dovremmo pentirci, quelle culinarie, quelle di trasgressione rispetto alla nostra capacità di fuggire dagli impegni familiari, esista anche quella di seguire un filmaccio. Ecco, quando nasce il termine più o meno cinepanettone? Allora, il primo cinepanettone nasce nell'83 e credo che possa essere il padre nobile di tutto, nobile è una parola grossa, è Vacanze di Natale dell'83. Secondo me rintracciare una storia di questi cinepanettoni dall'83 a oggi ci fa capire moltissimo di come si è evoluta la società italiana, perché dall'83 il primo film, sempre dei Vanzina, regia dei Vanzina, autore sempre di Vanzina, era molto articolato, molto complesso. Quindi sono i Vanzina, diciamo, i padri costituenti del termine del cinepanettone, del genere cinepanettone. Sì, sì, sì. Poi se la sono giocata con Neri Parenti, con Oldoini, ma diciamo l'imprinting è partito da loro. E il primo aveva molte tracce del padre dei Vanzina, cioè Steno, c'era ancora una complessità di sceneggiatura, c'erano dei personaggi particolari, strepitosi, come Guido Nicheli, il commendatore milanese. Sì, il compianto Cumenda, che è scomparso un anno fa, circa un anno e mezzo fa. Una macchina produttrice di linguaggio meneghino indimenticabile, capace anche di frecciate velenosissime, politicamente scorrette, cioè, parlava dei camerieri, cioè, visto l'animale come è andato via scodinzolando, no? Cioè, c'era anche una velenosità sociale molto interessante, molto particolare. Poi sì, che esiste realmente, che si produce realmente in quello strato sociale, a quelle latitudini. Ha un po' sbilanciato, diciamo, la grande scomparsa dell'artista, l'insorgere del romanaccesco come genere dominante. Un romanaccesco televisivo che si è appetito, mentre anche lì c'era il romanaccesco. C'era Mario Brega nel primo film, che faceva il macellaio. Mario Brega è una forza del passato, è un personaggio antico, trastevellino, strepitoso. Oggi si è perso, è diventato anche la bestemmia romanesca, è più televisiva, più piatta. Sì, ma conoscendo anche per frequentazione già da adulta questa città, il romanaccesco di De Sica, il romanaccesco dei caffè con gli ombrellini di piazza di San Lorenzo in Lucina, sono i fighettoni romani che stanno lì e ostentano quasi come manierismo questa lingua che non appartiene più né ai loro usi né al loro modo d'essere. Da circolo canottieri, diciamola tutta. Insomma, sì. Michele, buongiorno. Buongiorno. Entriamo nel vivo. Sì, io in realtà non ho un vero e proprio intervento, ma ho una domanda. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa lei e il suo ospite. In generale dei cinepanettoni, ma più precisamente se questo genere di film tra 20 anni, 30 anni diventeranno come quei film che negli anni 80 adesso sono culto, ma che prima venivano un po' bistrattati, di cui lei ha... Beh, noi stiamo già citando film dell'83, come vede già sono entrati perlomeno nella merce di culto per palati raffinati. Naturalmente il burino fisiologico, radicale e genetico li considera sempre come qualcosa da cui tenere le distanze, ma perché è come il mostro che non vuol guardarsi allo specchio. Ma lei cosa ne pensa però? Se devo essere sincero, soprattutto sugli ultimi, quelli degli ultimi 10 anni, della coppia De Sica-Boldi, non li ho visti tutti, ne ho visti a spezzoni o uno forse per intero, però penso che siano tutti uguali alla fine, non mi fanno impazzire la loro comicità, sì, mi fa ridere, devo dire che... Però trova come ha detto Sanson, ormai un ritirare una trama abbastanza ormai logorata. Sì, sono completamente d'accordo. Sanson, su due punti che dice questo ascoltatore. Primo, quando inizieranno a diventare merce di culto, quando saranno considerati degli indicatori felici del clima di una società. E seconda cosa, se realmente comincia a esistere un'omologazione di tracce, cioè la coppia Ghini-Ferilli, che sono sempre le stesse, De Sica o Boldi con i suoi figli scellerati. Più o meno mi sembra che ci sono due o tre situazioni che sono sempre le stesse. Sì, sì, poi c'è un altro cliché, che è quello del cafone che va in vacanza tra i ricchi, che è la ripresa usurata nei decenni del conte Max, appunto di De Sichiana paterna memoria. Sì, i cliché sono sempre quelli, sono sempre questi tappi che saltano dalla bottiglia di champagne De Sica che finiscono in bocca a Boldi, questi puntali di alberi di Natale che finiscono negli orifizi più indegni. Facendo sempre questi terribili rumori. Questi rumori, questa rumoristica, questa gag molto brutale, molto estrema. E la sceneggiatura si è rarefatta, si è persa. Di sicuro c'è un rispecchiamento del mondo televisivo, anche dal punto di vista musicale, per esempio. I primi film erano ricchissimi, le colonne sonore erano particolari, c'era Nada, c'erano musiche molto belle. Adesso c'è subito lo stacchetto delle veline, cioè ciò che fa agitare i glutei delle veline è anche la colonna sonora del cinepanettone. Tutto questa devo leggerti, è bella, dice Marco su Facebook. Per colpa dei cinepanettoni, l'Italia sarà l'ultima nazione al mondo a poter vedere Avatar di James Cameron, che è uscito il 16 dicembre ovunque, e noi lo vedremo il 15 gennaio. Ma secondo te c'è un nesso rispetto... Forse l'impiego delle sale, forse dal punto di vista distributivo non è insensata come cosa, però è possibile che ci sia un nesso, perché appunto magari effettivamente c'è stato un rinvio, adesso bisognerebbe indagare su questo, però insomma non è... Mi dispiacerebbe, quindi... potrebbe essere, perché effettivamente con De Laurentiis che deve riempire le sale con i cinepanettoni... Quindi l'ha slittato per vedere i cinepanettoni. Beh, interessante come punto di vista. Beh, sai, rispetto all'esplosione opulenta il cyberonirismo di Cameron, questa storia meravigliosa del paralitico che trasporta la propria coscienza nell'avatar dell'alieno blu con la coda lunga che incontra l'aliena con l'orecchia punta, con una tridimensionalità che è costata fantamiliardi, probabilmente vedersi il film fatto con quattro soldi, penso non costino poi tantissimo i cinepanettoni. No, non costano. C'è un buon rapporto rispetto... C'è un rapporto straordinario, sono gli unici film sani dal punto di vista economico, iper sani, perché il rapporto costo poi ricavi è sbilanciato al favore dei ricavi in maniera incredibile. Io credo che tra l'altro ci sia anche un nesso, perché De Sica in fondo è una sorta di avatar ormai anche di una certa società italiana, anche Boldi, insomma, sono ormai quasi... Oddio, un po' l'avatar del padre ha provato ad essere, diciamo la verità. Ha provato, lui è stato confezionato in un certo modo come personaggio. E i Vanzina, lo diceva lui stesso in un'intervista, i Vanzina gli hanno imposto di fare un po' il sordi all'inizio, di fare questo personaggio cinico, romanesco. E lui poi gradualmente ogni tanto ci infila quelle puntate un po' aristocratiche, mielose, della voce tipiche del padre, che poi sbraccano immediatamente in maniera violenta nella bestemmiaccia romana. Però senza quella grazia, devo dire, insomma, paterna, che magari nel padre c'era l'aristocratico che ha fame a un certo punto, in lui c'è l'aristocratico, il finto aristocratico che poi invece esplode in una semplicemente... Perché si è troppo sazio, un'esplosione di digestione per un'eccessiva crapula consumata, è il non più aristocratico, è il volgare che affoga nei liquami della propria ingordigia. Maurizio, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti. Ma io sinceramente appartengo alla categoria di coloro che non hanno mai visto un cinepanettone, però non per snobismo, perché in effetti i famosi B-movie degli anni 70 e 80 mi piacciono, li ho visti di frequente, anzi a volte li ho usati come terapia dopo aver visto film abbastanza pesanti. Ricordo la sera che vidi Le onde del destino di Lars von Trier, poi per fortuna in una TV locale trovai L'allenatore del pallone e riuscii così a bilanciare i due eccessi. Senta Maurizio, ma la sua è un'astinenza volontaria, controllata e lucida e consapevole, o perché non ha mai avuto occasione di farlo? Perché mi sembra strano, perché tutti ne siamo contaminati, anche se non andiamo al cinema a vederlo, e siamo talmente gonfi di trailer, di passaggi televisivi, già siamo già ci sembra di aver visto il cinepanettone prima ancora di vederlo. Io li vedo vendere ai senegalesi sui gradini della stazione Termini almeno una settimana prima di vederli al cinema. Ecco, credo che sia proprio quello il problema, una sorta proprio di repulsione, perché in realtà questi film noi riusciamo a vederli prima ancora che escono al cinema, attraverso i vari passaggi nei salotti televisivi, in tutte le trasmissioni che fanno il lancio pubblicitario, e questo forse che effettivamente dà a questi film una sorta di ritualità, cioè praticamente arrivati a ottobre-novembre appaiono i panettoni nei supermercati e i cinepanettoni nei trailer. A me questa cosa in effetti, la parola è un po' eccessiva, però disgusta, ecco. Io disgusta, lei sente sazio di cinepanettone ancora prima di poterne godere. Mi sembra logico e mi sembra anche comprensibile. Oh, ma che te chiodi con sto carolo morto? Eccola, barotto l'optional e farei antinebbia. 580 carte devo sganciare. Senta, bell'uomo, scusi, questa è la mia assicurazione. Ecco, nel senso che la compagnia è mia, l'ho comprata io. Non è che voglio fargliela pesare. No problem, non si preoccupi. Per un fanalino antinebbia, 580 carte, che vuole che sia, signora. Enzo! Enzo! È la mia signora. È un po' buzzicona, però è molto rapante. Molto. Enzo, mi è manchiodato dentro a sta gabbia, sono tutta appiccicata. Dov'è che ci fregherai valigie? Non strilla, che poi ti infiammano le tonsille e mi diventi pellicano. Soffri di faringite. 800240024, cominciamo a vedere quanto noi ci vediamo nei cinemarettoni, quanto ci vediamo gli amici, quanto ci vediamo in quelle massacranti e miserrime riunioni con famiglie di amici, di conoscenti, di colleghi, a volte imposte, a volte necessarie, e quanto le tipologie delle persone che frequentiamo sono, ahimè, così combacianti con i personaggi del cinepanettone, al punto da sentirci sazi di cinepanettone ancora prima di avere la possibilità di poterne usufruire in sala cinematografica. Giuseppe Sansonna, noi sentiamo voci, a queste voci molti associeranno immediatamente il personaggio, forse vale la pena di tracciare la galleria delle tipologie: il romanaccio con la moglie sudaticcia, con la moglie sempre detestabile da un punto di vista fisico e sempre con un'alternativa splendida, l'abbiamo già detto a proposito dei film di Pierino, uomini cialtroni, schifosi, panzuti, lardosi, puzzolenti, che ambiscono a donne meravigliose, con delle mogli che sono degli avanzi verminosi di materia umana al canto, e non si capisce perché continuano a starci assieme. Sì, sì. De Sica ha, come abbiamo sentito anche in questa breve clip, appunto oscilla, è sempre iperteso, concitato, e oscilla da questo tentativo di aristocrazia della voce flautata, che poi sbraca subito nell'aggressività. Una confezione alta di materia organica bassa. Esatto. E le mogli sono, in un film teorizza quel concetto che hai espresso tu, della mia moglie è una buzzicozza, dice, e allora c'è Ghini che fa il professore, un improbabile professore di latino greco, dice, ha fatto una crasi, e De Sica è avvolto in questa schiuma nella vasca, fa, ho fatto la crasi, no, non mi sembra, non si vedono le bollicine, sarebbero uscite le bolle, sì, insomma, un famoso trailer. E nel trailer c'è già, come diceva l'ascoltatore prima, nel trailer c'è già effettivamente tutto, la gente poi va al cinema e rivede e riride ritualmente anche le stesse cose, c'è una sorta di... Facciamo un esempio, un esperimento sul campo, il trailer dell'ultimo cinepanettone che sta andando in questi giorni in maniera incessante, qual è? Sì, Natale a Beverly Hills. Ecco, già cosa si vede lì? Si vede una donna con una faccia coperta di una fanghiglia restaurante, poi cosa si vede? E poi no, c'è De Sica che fa questo gigolò, la Ferilli che è la moglie di Ghini, insomma c'è la ripetitività. Che è un classico, Ghini Ferilli con De Sica che va con la figlia di Ghini, sì, sì. O è l'amante della Ferilli, chiamano un investigatore privato per fare le foto a Ghini e incastrarlo, questo si sbaglia, fa le foto di De Sica e della Ferilli, quindi è sempre, diciamo, un giro pazzesco di incroci, di scambi di moglie e via dicendo. L'eterno ritorno dell'uguale, poi c'è Ghini che cita Feydeau, le porte girevoli, tutto questo accadere, però in realtà è lo stesso film da 20 anni, insomma, è la ripetitività ossessiva. Sandro, velocemente, così diamo la linea alle informazioni della borsa. Salve, buongiorno. E io, proprio ricollegandomi a quanto detto poc'anzi, no, io credo che questi cinepanettoni in effetti abbiano molto poco di cinematografico e abbiano molto di teatro, cioè mi ricordano molto delle situazioni della commedia dell'arte, cioè di certe opere di Scarpetta, per esempio. Infatti, no? Sansonna citava Feydeau, l'albergo del libero scambio, queste proprio, porte girevoli, infatti. Certo, no, ma io proprio vedo che anche nell'impostazione che gli attori, che sono degli attori di grande mestiere, sia un tipo di, diciamo, recitazione molto più teatrale che non cinematografica oramai, perché mi ricorda proprio questo tipo di situazioni e di volontà. Forse quindi la ricerca della battuta forte per richiamare l'applauso in sala, per richiamare l'ovazione nel teatrino, la carrettella, come si chiama in linguaggio teatrale, è tutto fatto di tante carrettelle, sono piccoli sketch attaccati uno all'altro, non c'è mai una trama. Effettivamente, poi sono, come dice l'ascoltatore, sono delle maschere, effettivamente, De Sica, Boldi, anche lo stesso Ghini, ma tutto il corollario che c'è intorno, sono estratte da una trama che è sempre meno complessa, è sempre più brutale, più secca, e esprimono concetti molto semplici, molto immediati. Melog 2.0. E dai, no. E gioca su. Uscì là dall'incrocio di pali e zin! Io te la darei battena fucilata, vedi? A Remo, al posto del culo c'è una cassetta dei cocomeri, eh? Ma quale culo? A Fabio, spiegati proprio con chi stanno a giocare. Io so come Pelé, come Ribò, come Albertone Tomba, come il Brunello di Montalcino. I'm not a category, Dai, fama a Rivinci, stavolta li sfonnamo. Ma che ve sfonnate? Con ste facce da sfigati potete provare giusto col Gratta e Vinci. Beh, per chi richiedeva il senso della nostalgia, queste vacanze natale del 95, quindi stanno passando degli anni, abbiamo cominciato a fare una rassegna dei cinepanettoni iniziando appunto dal primo Vacanze Natale del 1983, lo facciamo con Giuseppe Sansonna, regista e critico cinematografico, che già nella rilettura di molti nostri ascoltatori che stanno scrivendo su Facebook è diventato Sanson, Joseph Sanson, come quei registi dei filmacci che si cambiavano il nome, anche i registi dei film porno si fanno dei nomi molto, molto esotici. Beh, Sansonna, cosa abbiamo sentito adesso? Abbiamo sentito il De Sica, appunto, che esibisce il suo solito slittamento da toni melliflui, toni contaminazione in inglese, sempre in inglese, e quello è Conte Max perfetto, e ascendenze paterne che poi vengono rigiocate in questa brutalità, che però non è la brutalità appunto popolare reale, è sempre un po' artefatta, è sempre un po' ipertesa, esasperata. E però ha costruito un personaggio che via via nel tempo è diventato sempre più, come si diceva prima, una maschera. È come se rimandasse continuamente a se stesso. Non ha... Mentre Mario Brega dei primi film era effettivamente credibile nel personaggio di Macellaio, si trascinava dietro un pezzo di storia. De Sica è ormai una monade a sé, che rinvia appunto a personaggi più televisivi. Si è creato anche il suo alter ego, c'è cioè sempre un altro attore sempre fisso accanto a lui, che rappresenta il bello, rappresenta Conticini. Ormai fanno coppia fissa, si vedono sempre insieme, quindi ha trovato anche il biondo e il moro, lui che diciamo è quello alto, l'altro per rappresentare la lettura bassa, la lettura inferiore. Esatto, mentre Boldi, con cui aveva litigato, invece rappresentava l'orrore fisico Meneghino, questo personaggio, poi Boldi che ha portato alla esasperazione questo battere il cuore, quando sono 25 anni che ormai mostra queste sue ipertensioni, questo suo infarto imminente come punto massimo di comicità, e poi fa sempre il padre di queste figlie che vogliono diventare letterine, vogliono anche figli maschi a Boldi, anche sì, figli sì, maschi sì, sì. Anche De Sica figli maschi, il figlio sta cominciando, sembra quasi stiano creando una seconda linea di successori. Forse sono convinti molto meno loro come attori cinematografici, in quanto loro come personaggi in generale, della loro immortalità sulla scena, quindi già preparano la seconda fila. Questo è vero, però allo stesso tempo sono anche i personaggi giovanili sono vacui. Il primo film dell'83 aveva una Amendola, figlio di Mario Brega, che comunque era credibile come figura popolare romanesca. Questi giovani che arrivano durano un film, in realtà poi spariscono subito dopo. Adesso... Però guarda, sono i figli di quel c'altro numero umano da Piazza San Lorenzo in Lucina, dicevamo, in realtà vanno alla scuola americana, in realtà a 5 anni già li sbattono nei college, già sono diverse, prendono le distanze, hanno sempre quella radice burina, quel DNA inalienabile, però almeno dall'aspetto esteriore sono tutti biondi, mesciati, mettono tutte le catenelle alle caviglie, sono abbronzati, parlano 7 lingue, sono cosmopoliti, si vestono in maniera diversa dai loro genitori, cominciano a provare vergogna per i loro genitori, e come al tempo Alberto Sordi e la moglie grassa, i figli facciano fare le vacanze intelligenti. Provano vergogna, però la carta di credito la tengono ben stretta fra le unghie, fra le unghiette, e comunque c'è nell'ultimo film... Ancora intrisa di mortadella, di anni di fettatura nella pizzicheria del padre, però naturalmente non Olet. No, pecunia non Olet. E nell'ultimo film c'è Michela Quattrociocche, che viene dal mondo belenso e stucchevole di Moccia e passa invece al Natale a Beverly Hills, quindi c'è anche interessante questo dal mondo dei questi lucchetti. Passaggi trasversali. Marco, buongiorno. Buongiorno. Siamo pronto? Qua. Sì, la sto ascoltando con apprensione. No, io ascoltavo la trasmissione, che è stupenda come sempre. Trovavo che la differenza sostanziale tra il cinepanettone, diciamo tutti i cinepanettoni che si sono susseguiti dopo le vacanze di Natale dei Vanzina, c'è una differenza notevole, perché nell'83 quel film ha rappresentato qualcosa di innovativo, perché presentava un mondo che forse non tutti conoscevano, presentava un sistema di vita, questo dei milanesi in vacanza a Cortina, con quelle scene famose del Commenda, tipo Asciugamani come se piovesse, tipo Milano-Cortina 40 minuti, la macchina, la Maserati, tutti quelli che... E secondo me è stata un po' anche una previsione di una realtà che sarebbe poi venuta dopo. Mentre invece i cinepanettoni successivi sono un po' una fotografia di una realtà attuale che bene o male tutti conoscono. La differenza secondo me notevole è quella lì. Ma secondo lei l'abbiamo conosciuta questa realtà? Ci siamo contaminati con questa realtà guardando questi film? Altrimenti, secondo me anche, sì, certo. Ancora non c'era Briatore, ancora non c'era l'esplosione della gazzettistica spionistico-sentimentale, ancora non esisteva il termine velina, non esistevano i programmi televisivi dedicati al gossip. La parola gossip poi non era ancora usata nell'accezione in cui oggi è stata logorata. Quindi probabilmente la prima avvisaglia che esisteva una sorta di Olimpo felice degli italiani che ci avevano fatta, una sorta di esito residuo di quel boom economico che ormai si vedeva soltanto nella letteratura, è stata nel cinepanettone. Secondo me sì, e poi ha presentato a una grande massa di persone, perché quel film ha avuto un successo notevole, questo Olimpo cialtronesco, perché a quel tempo l'Olimpo aveva una visione diversa, la massa lo vedeva in modo differente. Diciamo la verità, era Olimpo al punto tale che oggi gli stessi tipi, gli stessi stereotipi umani sono quelli che gestiscono i programmi televisivi, sono quelli che vediamo negli importanti salotti, sono quelli che comunque fanno pensiero, fanno ideologia e fanno tendenza. Ma allo stesso modo anche il programma televisivo di gossip è diventato cialtronesco. Eh sì, perché gli stessi conduttori poi sono i protagonisti, non c'è più differenza. Quando si vede Dago Spia, le meravigliose foto del Cafonal di Pizzi, e noi vediamo però le stesse persone insieme ai Cafoni sono anche i confezionatori di cafonaggine, quindi ormai non c'è più differenza. Sansonna. È un cortocircuito continuo fra il televisivo, la cronaca e questi film, mentre appunto un personaggio come, diciamo prima, Brega, Nicheli, avevano anche una costruzione linguistica sfumata, molto più interessante, molto più articolata. Gianni, buongiorno. Ciao, buongiorno Nicoletti, complimenti come sempre per la trasmissione. Io, come ho detto, mi ricordo nel lontano 83 il primo Vacanze di Natale girato a Cortina, se non erro. Certo. Poi da quello non li ho più voluti vedere, non so perché, ma la comicità di Boldi, dice il tuo ospite, è sempre quella, sempre quella. Sì, Boldi è un po' logorato, infatti c'è stato il grande divorzio, Boldi, sì, De Sica, poi il riappacificamento. E il De Sica, anche lui delle volte fa... Il padre delle volte non riesce a fare il padre, allora si butta su questo, cerca di fare il padre, secondo me. Il padre era tutta un'altra cosa nei suoi film. Quindi io anche su reti tipo Sky, delle volte passano e faccio un po' fatica a stare lì a guardarli. Vabbè, lei ha... sì, sì. E mi dico, e ti dico che con un amico, non dico che quasi ho litigato, ma ho smesso di andare al cinema con lui, perché lui regolarmente domani sera sarà a vedere Vacanze di Natale. Però se mi consente, questi sono film... non vanno guardati da soli. Io li guardo divertendomi in famiglia, superando il vomito di altri componenti della famiglia che hanno palati molto più raffinati. Li guardo volentieri assieme agli amici, mi piace vederli insieme a persone con cui si possono commentare. È la riesumazione del vecchio film Pidocchietto, si andava a vedere in 50 e si faceva casino in platea e veniva la maschera, accendeva la luce e diceva vi mando fuori. È proprio questa la dimensione di questo cinema. Certo, ci si potrebbe, anche da un cinema Pidocchietto ci si aspetterebbe un po' di più, forse una maggiore pennellatura dei personaggi, insomma. Però lo spirito è sicuramente quello, molto da stadio, la visione molto interattiva nel senso pieno del termine. Melog 2.0. Ma che fai, fermo mangione? Avanti, mollalo, Victor! Molla il virus! Mollalo! Victor, mollalo! Molla il Wirfel, Victor! Mollalo! Dammi questo Wirfel! Posa il Wirfel! Hai già mangiato, Victor! Dammi il Wirfel! Dammi il Wirfel! E basta con sto Wirfel! Mi stai strappando il pisello mio! Ma che c'è da vista in questo albergo? Quella che mi avevo tagliato, tu come lo strappa? Ma il pisello di chi? Caro Giuseppe Sansonna, esistono dei topoi irrinunciabili. Io ricordo che proprio 2 o 3 mesi fa Alessia Marcuzzi, la fulgida conduttrice del Grande Fratello, l'immarcescibile immagine patinata dei calendari più importanti della storia del nostro paese, fu duramente e ingiustamente censurata proprio per l'uso improprio di un Wurstel in una sua fiction televisiva. È il doppio senso che diventa senso unico, è un continuo rimandare alla stessa cosa nel mondo televisivo, cinematografico, delle fiction, della cronaca. Su Facebook Lamberto scrive: ascoltatrici con la puzza sotto il naso, e ce l'ha con le mie ascoltatrici, latitanti come sempre, annoiate, a volte indignate per l'argomento trattato, residui e frattagli del femminismo intellettuale anni 70. Signori, rispondete 800240024, date a Lamberto l'impressione che si sta sbagliando. So di avere delle curiose melogmani appassionate anche di questi interstizi della realtà che così fortemente noi percorriamo. Invece Daniela, che fa parte di questa felice schiera, mi scrive: forse meglio Natale a Beverly Hills che a casa. Là potremmo portarci volentieri nonni arteriosclerotici, mamme esauste, bimbi minchia, amici sfigati, sorelle amatissime, mariti distratti, amanti in fuga, il vicino di casa invadente, figli adolescenti e fidanzati al seguito. Il Natale quando arriva, arriva, arriva con lui, cinepanettoni salvifici, quel tanto per bonificare le case dalle invasioni barbariche dei banchetti natalizi, delle tombolate, dove qualcuno tenta pure di fare qualche misero blef. Beh, ecco, questo Daniela, questo sfogo della casalinga con velleità di fuga domestica dimostra quanto poi le ascoltatrici in realtà amino anche intuffare i piedi in questo genere. Matteo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Pronto? Sì, l'ascolto. Prima di tutto non posso non trovarmi d'accordo con quanto ha appena detto Sansonna, di questo doppio senso che ormai è diventato senso unico non solo nel cinema panettone, ma nella televisione e nella televisione contemporanea. A proposito di cinema panettone, volevo dire che ho amato e amo ancora il primo Vacanze di Natale, ma anche i vecchi film di Vanzina, non so se sono definibili cinema panettone, ma il genere era quello. Il primo Sapore di Mare, i due Sì, erano lei ha ragione, cita meravigliosamente, una citazione veramente di filologia perfetta, quelle che erano le prime avvisaglie, i primi segni, come i primi segni della lingua italiana si trovano in dei frammenti in cui non si usava più il latino. Ecco, il cinepanettone già traspariva da questi film vacanzieri estivi che citavano degli anni 60 improbabili, però già c'era tutto. E lì c'era qualcosa, c'era un'ispirazione dietro. Adesso questi ultimi cinepanettoni che onestamente non riesco più tanto a guardare, cioè se passano sono con mia moglie, li guardo volentieri, rido anche, per carità, però è una cosa da mestierante, vedo, cioè non c'è più un'ispirazione, c'è un lavoro, fanno incassi, sono diventati dei manieristi della cialtroneria. Prima erano cialtroni veri. Poi, per carità, io non condanno nessuno, anche Vicchieri, quando incontrava dei signori nei salotti dell'arte, diceva: ma maestro, ancora degli acquerelli? Io, sì, sì, adesso guardo in cantina, ce li ho. Andava e li dipingeva, quindi non condanno, è sempre arte. E anche gli però è nota un decadimento, ha una nostalgia per quelli che erano i film fondatori del genere. Sanson, sei d'accordo? Sì, sì, mi piace che sia citato Sapore di mare, perché appunto era un film sempre di cassetta, ma fatto con un certo gusto, con una coralità, con un senso dei personaggi, dell'interazione fra personaggi, ricchi di sfumature varie, e anche il lavoro sulla musica, c'erano delle musiche molto ben usate che interagivano, andavano a ricostruire un tessuto di memoria collettiva interessante, molto, molto. Oggi c'è meno cura nella confezione, tanto va bene lo stesso, e risparmiano. Nadia, oh, ecco, finalmente sconfessa il pregiudizio del nostro ascoltatore su Facebook. Buongiorno. Pronto? non si vergogni, parli con libertà, buongiorno, della sua colpa. No, va bene, io parlavo, diciamo, con una mamma di figli adolescenti. Lei si sente come la moglie di De Sica a volte, dica la verità. Guardi, io conosco pochissimo i film, le spiego, perché questo tipo di film non mi piace. Quindi non può farmi domande particolari, perché onestamente non li conosco molto bene. Li vedo a volte insieme ai miei figli quando passano in televisione. Ma diciamo in generale, i ragazzi sono molto attirati da questo, gli adolescenti sono attirati, andiamo a vedere a Natale il film Cinepanettone. E ci vanno assieme agli amici? Sì, ma parliamo di bambini di 11-12, ragazzi di 11-12 anni, che qualcuno ancora chiama bambini, ma è un po' prestino, ragazzi, onestamente, direi. Guardi, non sono un moralista, figuriamoci, ma 11-12 no, anni direi che è un po' prestino. Io sono d'accordo, ma se andiamo al cinema... Anche perché si fanno delle idee sin troppo realistiche poi sulle frequentazioni dei genitori, cioè vedere a 11 anni che papà e la mamma sgroppeggiano tranquillamente con gli amici di famiglia, forse mina alla base quello che dovrebbe essere una sorta di, sì, rapporto di fiducia. Che la maggior parte del pubblico del primo spettacolo di un cinema di questi ragazzini di 12-13 anni. Ecco, io direi, se posso dirlo, ma giusto, già detto il finale, ha già detto il finale per me. Se posso dirlo, direi ai genitori: aspettate, diciamo che 11 anni è un po' troppo presto. Capisco che oggi i ragazzini vedono di tutto, capiscono, ma diamogli il tempo di crescere un pochino nell'illusione che gli adulti siano ancora le guide della loro vita. Non diamogli subito l'idea di quello che siamo realmente. Sansonna, sei d'accordo? Questo è vero, sono d'accordo, però è anche vero che la dinamica di questi film è invece è proprio destinata all'infanzia, perché la loro semplicità, la loro meccanicità è proprio la gag, la roba che cade addosso a Boldi, o i puntali degli alberi di Natale che finiscono appunto negli orifizi più indecorosi. Ma certo, io, sai, sono un signore di altri tempi, forse sono io che sono veramente fuori della mia epoca. Pietro? Sì, buongiorno. Sì, la sto ascoltando. Secondo me la differenza sostanziale tra il cinepanettone, che quello che nemmeno c'era come termine una volta, insomma, quello di adesso, è che a mio avviso adesso è tutto incentrato intorno alla figura di Christian De Sica e intorno praticamente a attori che fanno una stagione o in televisione eccetera e poi entrano nel dimenticatoio. Il vero film di Natale era, infatti, io li rivedo in molti, ma rivedo quelli di un tempo, insomma, battute come questo Natale sono siamo nella totale palle, sono battute irripetibili che oggi francamente non sento, tant'è che... No, lei ha ragione, esiste realmente una sorta di divizzazione di Christian De Sica. Ho visto uno speciale che gli hanno fatto su Sky con tutto il pubblico, una cosa da star americana, col figlio che interviene, la lacrimuccia sul figlio, cioè veramente hanno confezionato, ormai già è pronto il suo coccodrillo come grande eroe della cinematografia italiana. Sanson? Esatto, nel quel primo film che ha citato l'ascoltatore, invece De Sica aveva una parte all'interno di un coro, e quella battuta la dice uno straordinario attore come Riccardo Garrone, che ha tutto l'atteggiamento canagliesco per poterla dire e dargli senso a quella battuta. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie agli ascoltatori, grazie a Fabrizio Intonti e grazie soprattutto al professor Alessandro Chiappini, che anche questa volta ci ha fornito delle preziose reliquie della sua importante cineteca, che è stata già richiesta da organi ufficiali dello Stato per passare appunto al patrimonio nazionale, o perlomeno al patrimonio protetto dall'UNESCO e cose del genere. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 800-28-1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.